batteria, la batteria è scarica, quindi non sto lì a togliere la batteria da qua, mettere qui, qua, lì e là, ma qualcuno mi ha detto che me la può travarti, poi dice che la stampa per lavoro, scappa, veloce, capito, tanto lo cominciare. Allora, riepilogo, tu mi hai detto, ho cambiato il corpo, dice ma fatto, il signore ha detto cosa c'è? Dice sono uguale, tutto a posto, l'hanno visto, sono uguale le modulazioni, le abbiamo già testate i microfoni, questo è l'altro, ok, capito? Becca da braccio. Te l'ho spiegato anche in bassa, e ancora non l'ho scompresa, cazzo è sopra. Becca da braccio. Sì. Sì, registrato il becco. Ora, carrellare che ti ha attaccato il microfono, se mi bip più 4, se mi bip più 5, e non pure differenzia. Vuol dire che sono andati, hai fatto un'ottima modulazione, vuol dire che sono tutti e due competitivi. E te lì che ti attacca se non attacca. Se c'era differenza, è logico che ti avrei detto, cazzo si sente differenza. Non si sentiva nessuna differenza. Io ho detto la mia pensando che amplificasse un po' di più, però, se hai attaccato l'MB più 4 e si sente paragonato come l'MB più 5, significa che la modulazione, il cambiamento che c'è stato tra calcio al microfonico, il ponticello che è stato fatto all'interno della scheda, bla bla bla, cazzo, vuol dire che era equiparata l'MB più 5, perché con l'MB più 4 normale tu lo sogni a zagare, lo intende, da campare lui, mandigare, comunque ho sentito un break, non ho capito bene se era propagazione o chissà, comunque con la buona sera avanti break. Neo capa bracco break da bracco, no, bracco da Sassari, ma voi dove siete? Minchia, Franco da Sassari con la buona sera, ben sentito. Insomma, non è che ti posso dare un grande modulazione, ti ho sentito proprio sotto il QRM, comunque Santiago 3 Radio 2, comunque proviamo lì a Osilo se arrivi bene, magari essendo più vicino a te, vai Urale, sentito a Franco da Sassari. No, io sento che si sta alzando un po' di QRM, ma prima che si alzi più del tanto io qua chiudo tutto, ok? No, negativo, non ho sentito, salutavano qua da parte mia, perché qua io negativo, sta alzando il QRM. Niente, nulla, zero, riporto zero, zero negativo, nulla, non arriva. Porca miseria, ma perché a voi, insomma, vi soffio bassi, però vi soffio tutti e due, uno Santiago 3 e l'altro 2. Sì, ho capito che ci ascolti Santiago 3 Radio 2, adesso lo sai perché ti ho copiato bene, perché ti è annientato completamente il QRM. Va bene Franco, è purtroppo è così, se non ti ricevo io automaticamente non senti neanche a me. Ovviamente è così, è questione di ottica. Comunque mi ha fatto piacere sentirti, dipende che zona sei, zona bassa, tratta C, non lo so. Zona, com'è la situazione? Ma poi come mo, ma sei con l'antenna fissa, un portatile, com'è? Me stai chiedendo? Sì, Franco, a te. Oh, veramente, bracco. Franco. Unigane, bracco da Ponato, con la B, BR. Ma, va bene, ok. Vabbè dai, ti saluta ora. Oh, dai, chiediamo che deve avviare a mandigare, non dico due, te deve fare. Oh, ti ringrazio, Razzi. Non si intende il tanto, dai. Vabbè, sta andando parecchio il QRM, mi pare che mi nasconde un po' anche a te pure se continua così. Vabbè dai, vediamo un po' domani se qualche altra che è creata. Tanto vedremo un po', domani mattina devo fare anche la commissione, andare a fare un'escursione lì alle PT, devo fare, quindi niente, domani mattina devo fare il trabacchetto qua di pulizia, spolveratura e via dicendo, dai. Vabbè, grazie della chiacchierata, allora ci sentiamo, dai, buona cena quando la farai e ci sentiamo per domani, dai. Ok, perfetto. Saluto anche a questo Luca, se mi sta sentendo, ma penso di no, non lo so. Vabbè, dai, ci sentiamo, io qua chiudo, Va bene, ciao. Vabbè. Ciao, ascolta, ma tu l'altro, sto parlando, mi riferisco a quello che può più meglio, da dove stai modulando? C'è troppo QRM, non riusciamo a sentirti, Vabbò, dai, ti ringrazio, Franzi. Ci sentiamo, 7-3, più cordiali, buonanotte e ci sentiamo, dai. Grazie del QSO, grazie della bella serata e grazie di tutto, Ok? Ciao, Franzi, ci sentiamo. Questo è il QTH vi ho chiesto. Ok, ciao Franzichi, ciao. Per l'amico che chiamava, guarda, si è alzato un QRM a 5, negativo sentirsi più, sento un cigolio sotto, guarda, mi dispiace tantissimo, Dai, ci sentiamo alle prossimine, se mi ascolti, 7-3, buon 144, dai. Mi dispiace, non riesco più a sentirti perché si è alzato improvvisamente il QRM anche qua. Ok, se mi sente ancora, 7-3, ciao, ciao Franzichi, ciao. Ok, ciao, ti volevo, ti stavo chiedendo solo da dove stai modulando.